l'altra Europa. Buon sabato e ben ritrovati da Federico Taddia. Mezzogiorno, 12.07, l'appuntamento col nuovo orario dell'Altra Europa, il programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Tante radio europee, tante lingue diverse per raccontare lo stesso percorso. Siamo qui ogni sabato per raccontare altre sfumature dell'Europa. Cerchiamo di farlo a modo nostro, portando storie, portando persone, parlando di opportunità e possibilità, senza nascondere tutti i punti critici che ci sono. E Radio 24 li racconta giorno per giorno nei tanti appuntamenti dedicati all'Europa. Noi il sabato cerchiamo così di raccontare anche quell'Europa che ci piace. Le coordinate virtuali per seguirci anche sulle nostre piattaforme: l'account Euronet Plus R24 su Twitter e Facebook, oppure il mio account personale @FedericoTaddia. Euronetplus.eu invece è il sito del portale. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte con un viaggio molto particolare. Si chiama Get Your Way, il nuovo progetto promosso da Volontarimi, niente capofila, insieme con la rete dei centri di servizio per il volontariato di Emilia-Romagna, Marche e Calabria. Sono coinvolti in particolare il CSV di Forlì Cesena, Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Cosenza e il CSV regionale delle Marche. Tanti partner per questa iniziativa promossa all'interno del programma europeo Lifelong Learning Program, con questa iniziativa che intende favorire la formazione e l'inserimento lavorativo di persone con bisogni speciali. Stiamo parlando di disabili e stiamo parlando di un progetto che ha portato un gruppo di ragazzi a Granada. In queste ore ci colleghiamo proprio con Alfredo Mori, detto Edo, che è uno degli accompagnatori. Ciao Edo. Ciao Federico. Allora, cosa state combinando a Granada? Allora, in realtà oggi noi siamo a Cordova, siamo venuti in gita a Cordova e stiamo aspettando per entrare alle Amesitas. Okay. Siamo comunque alloggiati a Granada, ospiti del MEP, Mobility European Project, e siamo già una settimana che siamo qua in Spagna. La settimana scorsa abbiamo visitato in modo approfondito la città di Granada e con oggi abbiamo cominciato un po' a fare qualche giro per far conoscere un po' anche altre parti dell'Andalusia ai nostri ragazzi. Certo, il bando è dedicato a ragazzi tra i 18 e i 30 anni in situazione di criticità cognitiva, disagio mentale o in condizione di marginalità. È il terzo viaggio, mi pare, dell'iniziativa. Siete 5 ragazzi e 2 accompagnatori. L'idea è quella di vivere un'esperienza che sia di convivenza ma che sia di incontro, quindi un'esperienza sia formativa, perché si incontrano altre realtà, sia un'esperienza di, appunto, di convivenza sociale. Esatto, sì, no, il nostro viaggio ha una doppia valenza, sia di formazione, infatti facciamo anche dei corsi di lingua spagnola, ma anche, direi anche soprattutto, di turismo e di vivere insieme questa esperienza che per i nostri ragazzi è veramente un'esperienza fantastica. Ecco, qual è il valore aggiunto europeo, al di là del progetto e al di là dei finanziamenti, il fatto di andare in un'altra nazione che così apparentemente può essere alzare l'asticella delle difficoltà, anche quella degli stimoli ovviamente. Perché la scelta di andare all'estero? Ma la scelta di andare all'estero è per offrire appunto questa opportunità di viaggio ad alcuni dei nostri ragazzi che, diciamo, in condizioni normali non avrebbero potuto accedere a questa esperienza. Il fatto di poter utilizzare questo finanziamento della Comunità Economica Europea non è irrilevante, perché comunque noi siamo qua, diciamo, a titolo assolutamente gratuito, non paghiamo quasi niente, e questo permette a molti ragazzi di fare un'esperienza che altrimenti non avrebbero potuto fare. Quali sono le reazioni? Quali sono state le reazioni fino ad ora? Ma direi di grande entusiasmo da parte dei ragazzi, sia quando affrontano, diciamo, i corsi di lingua spagnola, si preparano anche prima delle lezioni, e poi anche quando viaggiamo, nonostante i ritmi siano un po' intensi, la sera i nostri ragazzi sono sempre distrutti, stanchissimi, però affrontano questa esperienza con grande voglia, con grande passione. Volontarimini.it/Europa è il sito per avere informazioni su Get Your Way, e sono previste altre settimane prossimamente, o questa è l'ultima tappa del progetto? Per quanto riguarda il nostro gruppo, noi qua siamo così, rappresentiamo due realtà di Parma, la cooperativa sociale Molinetto e l'associazione di volontariato Liberi di Volare. Noi terminiamo qua il nostro percorso, però credo che il centro servizi volontariato di Rimini abbia poi anche in programma, in cantiere, altri viaggi, altre opportunità per altri gruppi delle città che tu menzionavi all'inizio quando hai presentato questa esperienza. Ecco, questo, anche questa per noi è l'altra Europa. Grazie Edo, grazie a te, grazie a tutti i ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Job Hunting Across Europe. Vi piacerebbe volare in una bella cittadina universitaria della Romania, nel cuore della Transilvania, per parlare di lavoro? L'Associazione Scambi Europei è alla ricerca di 12 persone che abbiano voglia di partecipare al progetto Job Hunting Across Europe, che si terrà dal 15 al 22 novembre. I partecipanti provenienti da Italia, Spagna e Romania apprenderanno strumenti e segreti per una ricerca efficace del lavoro nei loro rispettivi paesi e nel resto d'Europa. Per informazioni e iscrizioni visitate il sito scambieuropei.info. L'altra Europa. Novembre 1989, una data che ha cambiato la storia. 25 anni fa, domani, crollò il muro di Berlino. Lo sapete, tantissime iniziative in tutto il mondo, in particolare ovviamente a Berlino. Stiamo ascoltando questa canzone, Wind of Change, degli Scorpions, che è diventata la canzone simbolo della caduta del muro, della riunificazione della Germania. E vogliamo dedicare una parte dell'altra Europa, perché da quel 9 novembre dell'89 passa tantissima Europa proprio a questo anniversario, con voci diverse ancora, con chi ha avuto modo di vedere il muro da punti di vista particolari. Prima però capiamo cosa sta succedendo a Berlino, lo facciamo con una voce amica dell'altra Europa. Diamo il benvenuto ad Ambros Weibel, giornalista del quotidiano Taz. Ciao Ambros, ben ritrovato. Ciao Federico, ciao agli ascoltatori. Ciao. Sei andato a vedere gli 8.000 palloncini che... 8.000 palloncini, allora, vero, che disegnano il muro là dove c'era 25 anni fa? Sì, hanno messo 7.000 palloncini per segnalare un certo brano della ex frontiera della città di Berlino. E questi palloncini poi saranno illuminati durante la notte e poi domani. Domenica verso le 7 di sera poi i palloncini saranno liberati e così questa frontiera artificiale non ci sarà più e volerà in cielo. E Ambros, ecco. Tante iniziative, tante manifestazioni, cerchiamo di andare al di là della retorica. Berlino come sta vivendo in verità questo anniversario? Ma diciamo che l'anniversario ovviamente è anche una cosa turistica. Berlino in questi 25 anni è diventata una meta turistica di una importanza enorme per la economia della città. È un po' sicuramente un Disneyland storico, no? Dall'altra parte, diciamo, questi 25 anni sono è un periodo interessante al momento. Cito solo un esempio: nell'Land della Turingia, nel Bundesland della Turingia, ci sarà fra poco probabilmente il primo governo rosso-rosso-verde, cioè un governo che include anche l'ex partito comunista. E ovviamente questo è un forte segnale per tutto questo che sia successo in questi 25 anni, no? Certo, e tra l'altro così, proprio una notizia di cronaca, ci sarà uno sciopero in questo weekend a Berlino, vero? Ecco, c'è un grande sciopero del sindacato dei macchinisti, che però adesso hanno detto che smetteranno stasera, mi pare verso le 7, volevano continuare fino a lunedì, ma in questa c'era una retorica un po', diciamo, nazionalistica contro questo sindacato, che si permette di fare uno sciopero il 9 novembre, così hanno fatto un po' retromarcia. Ambros, riascoltiamo insieme 20 secondi di Hans Joachim Friedrichs, collega che per primo parlò di giorno storico quando crollò la prima parte del muro. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Ambros. Sì. Quanti anni hai tu? Io ho 46 anni. Te lo ricordi quindi quel giorno? Dove eri? Me lo ricordo benissimo. Io stavo all'epoca facevo parte di un gruppo teatrale. Ero in un paese della Campania, in Assia, dove facevamo le provine, e mi sono alzato la mattina per fumarmi una sigaretta fuori, e poi da un momento all'altro ho visto tutte queste macchine Trabant DDR che erano passati dalla frontiera vicina. Così era veramente uno spettacolo che io non, a prima vista non ho capito bene cosa sia, perché oggi non si parla più molto, ma i tedeschi dell'Ovest non è che affatto si interessavano molto per i fratelli dall'altra parte, no? Mm-hmm. Sapevamo poco. Sai che anche le tue parole mettono comunque i brividi, perché è una testimonianza vera, reale, di chi era lì. Fulvio Pinna, tu dove eri quel giorno? Ma io ero proprio lì di fronte al muro, di fronte a Bernava Strasse, dove uscirono i primi cittadini della DDR, e noi li accoglievamo con dei fiori, qualcuno con dei soldi, indubbiamente con una grande euforia, una grande felicità. Fulvio Pinna, sardo, artista, cosa ci facevi a Berlino in quegli anni? Appunto, sono andato, bella la mia piccola storia parte un po' da lontano, perché mi sono sempre occupato di politica con l'arte. Ho iniziato facendo un grande quadro per Solzhenitsyn nel 73, poi un grande quadro per il movimento della Solidarność per la Polonia, e poi un altro quadro ancora sempre con quel tema che ora sta in Vaticano, e quindi era quasi logico che io ero attratto da questo movimento che c'era in Berlino. Ero curioso di vedere un popolo diviso, come viveva, e quindi mi ha spinto questo ad andare là, e nell'ottobre dell'87 ho fatto il mio primo viaggio a Berlino per vedere proprio il muro. E poi sei stato uno dei primi ad essere invitato a fare il murales sul esatto, muro, vero? Sono stato il primo, e sono io che ho iniziato. Logicamente era una cosa rivoluzionaria, perché questo muro grigio al quale non si poteva avvicinare nessuno dalla parte est, naturalmente dalla parte ovest era, diciamo, tra virgolette, pasticciato da graffiti, e quindi io invece lo guardavo con grande tristezza e preoccupazione, perché quando c'ero io ancora non si pensava, non c'era sentore di quello che è successo due anni dopo. Mm-hmm. E quindi ti sei trovato davanti a questa parete grigia immacolata, sei stato il primo a mettere colore sì, su quel muro. Esatto, Ecco, io sono con la mia arte metafisica che a Berlino era un po' sconosciuta, non perché dominava l'espressionismo tedesco, fui accolto da critici e giornalisti bene, e quindi ero soggetto a interviste televisive, radiofoniche o sui giornali, e quindi ero già in 2 anni diventato un personaggio, e allora mi contattarono per questo. Uh-huh. E mi chiesero appunto che pensavo di questo Miro Grigio, e poi io un po' con ironia, un po' con scherzo, dice: ma non sarebbe male dargli una bella passata di colori, diciamo. Pare che fossi stato preso la lettera, infatti dopo questo successo alla fine dell'89, in dicembre, e in gennaio ci fu una riunione, mi contattarono e mi chiamarono per realizzare questa cosa qui. E a marzo si iniziò a un inno alla gioia che raffigura una sirena che si porta via la dittatura. Esatto. Questo murales che fine ha fatto oggi? Allora, questo è stato per 20 anni quasi, non solo il mio, insieme al pezzo di muro che è circa 1 km/200 m, diciamo quasi trascurato ufficialmente, perché io penso anche che c'era la volontà di dimenticare questo muro dalla parte delle autorità. Poi invece, cioè almeno da parte mia, c'è stata una presa di posizione, perché gli altri artisti erano troppo accomodanti. Si è resistito fino a quando ho compiuto 20 anni, nel 2009, ed è stato restaurato. Quindi lo Stato pagò ad ogni artista una cifra simbolica di 3.000 euro per rinnovarlo, ma il mio non è stato restaurato, è stato completamente rifatto, perché in questi 20 anni i graffiti, intemperie e cose varie distrussero completamente il dipinto, e allora l'ho rifatto di sana pianta, però rispettando questa la costruzione della sirena, questa idea che si porta via simboli della dittatura. Certo, grazie davvero a Fulvio Pinna per la sua testimonianza e per questo bel ricordo, un ricordo colorato. Ambrose, il muro oggi i berlinesi lo vanno ancora a cercare, perché ci sono comunque resti di muro disseminati in città. Certo che ci sono dei resti, ci sono dei segnali che segnalano tutto il muro che si può seguire. Ovviamente questo non è tanto per i berlinesi che vivono la loro città con libertà, non vadano molto a questo muro. Ovviamente se io vado in bicicletta con i miei figli li faccio vedere come dove c'era il muro, per dargli un po' l'idea come la storia può, come le cose umane, diciamo, nella storia possono cambiare, perché loro fanno fatica di immaginarsi una città divisa da un muro. Certo. Dario Jacopo Laganà, fotografo, ha studiato storia della Germania, ha sempre avuto un feeling strettissimo con Berlino, dove ci vive da diversi anni. Ciao e benvenuto anche a te all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Tu hai trovato una sorta di cimitero del muro di Berlino, vero? Sì, in realtà, come già si è detto, in realtà il muro è un po' ovunque. I 160 chilometri di fortificazioni comunque non si possono cancellare anche in 25 anni, c'è moltissimo cemento in questa costruzione che comunque è rimasto abbandonato in varie zone della Germania. Una parte di queste a sud di Berlino è una specie di campo privato in cui ci sono dei pezzi del muro e dove alcuni artisti vanno a dipingere ogni tanto. Uh-huh. E dove appunto sono stati raccolti. Com'è fotografare Berlino oggi invece? Ma io in realtà, sentendo le impressioni e le esperienze degli altri due in collegamento, in realtà mi sento piccolo, nel senso che io sono sia anagraficamente un po' più vicino, il muro l'ho visto in televisione cadere, però comunque, come dicevi tu, comunque mi ha lasciato comunque un senso dentro. Fotografarlo è interessante, Berlino è una città in cambiamento, è una città che ha vari strati storici e che si può scoprire man mano, è una città molto profonda volendo. Grazie davvero Dario per la tua testimonianza. E dove possiamo vedere le tue foto? Sul MIT, forse, il portale? C'è un portale, il MIT, e poi ho un mio blog che si chiama elephantinberlin.com, dove raccolgo tutta la documentazione storico-fotografica che faccio di Berlino. Perfetto, grazie per la segnalazione. Grazie a voi. Ambrose, prima di salutarci, Quali muri realmente ci sono ancora a Berlino oggi? Al di là del dei resti, delle pietre, c'è ancora qualche muro che in verità permane? Nel senso che un muro fra i tedeschi della Germania Ovest-Est? Sì, esatto. Sì, sì, se c'è ancora qualche... Ma sicuramente ci sono ancora delle piccole differenze, ma diciamo... non conta molto. Sappiamo tutto che il vero muro oggi sta da altre parti. Il vero muro sta nel mare Mediterraneo, sta alle frontiere della comunità europea. In questo senso è importante ricordare quello che è successo 25 anni fa. È importante ricordare che la gente vuole una vita libera e vuole poter muoversi, ma non diciamo quelle azioni più interessanti, anche artistiche, che si svolgono adesso con questa commemorazione, sono le azioni che ricordano che dobbiamo batterci oggi per una vita degna per tutta la gente che sta aspettando nella Libia, alle frontiere europee per farsi una vita libera e certo. Un'Europa che sappia essere accogliente o che comunque possa ecco. Aiutare queste persone anche appunto forse nei loro stessi paesi d'origine. Ecco. Grazie davvero Ambros, grazie Ambros Weibel, giornalista del quotidiano Taz. Noi adesso ci fermiamo, un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa. In occasione della quarta edizione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, la Direzione Generale per il Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali avvia un'attività di ricognizione delle azioni esemplari svolte nel territorio italiano per individuare le candidate italiane al Premio Europeo. Tutti i soggetti che operano nel paesaggio e nella cultura possono segnalare al Ministero le attività svolte a favore del paesaggio in tutte le sue componenti naturali e culturali, nella accezione più ampia, che siano risultato evidente di politiche sostenibili di sviluppo economico ed etico volte all'integrazione delle popolazioni locali con il territorio di appartenenza. Per saperne di più, visitate il sito premiopaesaggio.beniculturali.it. L'altra Europa. There was a time when I was younger, and all the nights and days were long, and every day just getting stronger, like a sunflower in the sun, in the sun. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. @ Federico Taddia, mi trovate su Twitter e su Facebook, le piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Questa settimana a Roma, all'interno del calendario legato al semestre europeo, presidenza italiana, si è tenuta una 2 giorni molto viva, mi sembra l'aggettivo più giusto da utilizzare, promosso dall'agenzia Giovani, Agenzia Nazionale per i Giovani, e una 2 giorni intitolata Gioventù Italiana, una garanzia per l'Europa. Con noi Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ciao Giacomo, ben ritrovato all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Una 2 giorni dove le istituzioni si sono messe in gioco con un centinaio, forse 150 giovani ragazzi e ragazze di tutta Italia, che per un mese hanno creato dei team per proporre idee concretizzabili all'interno del cappello di Erasmus Plus. Questo è stato un po' il senso delle 2 giorni, con importanti testimonianze che adesso ci racconterai. Qual era l'obiettivo della 2 giorni? Sì, Sì, da due giorni ho visto la presenza continua di 150 ragazzi, che sono diventati anche 200 in diversi altri momenti. Noi abbiamo voluto evitare di fare un'iniziativa che fosse il solito convegno, per quanto interessante, però scontato. La formula che abbiamo sperimentato è stato un format diverso di coinvolgimento e partecipazione di questi ragazzi, che da circa 20 giorni già lavoravano online su una piattaforma con progetti che venivano presentati proprio attraverso gli strumenti Erasmus Plus, che è il programma europeo gioventù che l'Europa mette a disposizione delle nuove generazioni, e che poi ha visto nelle due giornate appunto a Roma la possibilità di presentarli definirli e presentarli, e quindi c'è stata da un lato la presentazione del programma Erasmus Plus, degli strumenti e opportunità, che erano il primo obiettivo. Dall'altro fare in modo che ci fosse un secondo obiettivo, che vedesse la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze nel concreto, e quindi, come dire, non è soltanto quello che vi raccontiamo, ma anche quello che voi potete fare con le vostre idee, con le vostre passioni. Certo, stimolati da interventi di Don Ciotti, il sottosegretario Bobba, l'onorevole Costa, tra gli ospiti che hanno contornato questa due giorni, di fatto era una grande simulazione di quello che i giovani possono fare grazie alle opportunità promosse da Erasmus Plus. Sì, di fatto oggi si usa l'espressione un barcamp, però abbiamo fatto due giorni un grande barcamp di idee, che appunto sono alternate dalla partecipazione dei ragazzi, però anche la presenza di esponenti del governo. In entrambi i due giorni il governo italiano è stato presente, il primo giorno con Sandro Gozzi e poi con Gigi Bobba, con personalità come appunto Don Luigi Ciotti, con Silvia Costa, con Cesare Damiano, che da postazioni diverse del Parlamento europeo e nazionale si occupa di giovani, cultura, lavoro, quindi, come dire, è stato un format appunto che è attivo sulla produzione di idee, con interventi anche talvolta tra virgolette disordinati, però che, come dire, hanno creato un mix molto molto positivo. I fondi ci sono, le possibilità ci sono, le opportunità ci sono, i giovani ci sono e hanno idee, e manca spesso questo canale di comunicazione su cui voi state lavorando molto, e forse però non è ancora fatto abbastanza. Qual è il punto debole dell'incontro tra le possibilità offerte dall'Europa e i giovani? Sì, hai detto bene, io non so quello chi si nasconde tra il dito, ci sono le risorse, ci sono strumenti e possibilità che vengono messi in campo per le nuove generazioni, dalla parte dell'Europa e in parte anche da parte del governo italiano, e quello che dobbiamo rafforzare, su cui appunto stiamo parlando, è il tema della comunicazione e della informazione. Noi in 8 mesi abbiamo già svolto circa 40 incontri in tutta Italia, dalla grande città al piccolo comune, dal nord al sud, hanno già incrociato circa 3.000 ragazzi. Questo tipo di attività e di lavoro ci sta portando oggi ai primi risultati, con centinaia di progetti che sono arrivati alle varie scadenze di Erasmus Plus in garanzia in agenzia giovani, però come hai ben detto tu, tutto questo è da migliorare, perché più alta è la platea di ragazzi e ragazze che riusciamo a raggiungere, e più alto è il numero di chi avrà la possibilità di usufruire di questi strumenti. Il punto debole è che c'è una parte di ragazze e di giovani in generale che sono quelli che vengono definiti NIT, un po' parcheggiati, e sono quelli invece che vanno più sollecitati. Certo, e anche perché iniziano ad essere numeri drammaticamente alti. Giacomo, qual è la cosa che più ti ha colpito dalle parole dei tanti giovani con cui sei stato in queste 24 ore di fatto? Ma intanto mi ha colpito il fatto che per due giorni non c'è stato un caso di attenzione, nel senso, pur essendo un interesse, si svolgeva al centro di Roma, a Piazza di Pietra, quindi con la possibilità di anche di, tra virgolette, distrarsi, uscire, allontanarsi, non è accaduto, e tutti quanti sono stati presenti, significato che c'era una grande attesa di questo appuntamento e di viverlo appieno. Questo mi ha colpito sinceramente, non pensavo che riuscissimo per tutti e due giorni a tenere viva fino alla fine un'attenzione di questo livello. Poi mi ha colpito moltissimo le parole dei ragazzi che hanno raccontato delle esperienze già fatte. Ce ne abbiamo aperto con le esperienze già fatte concrete, un programma gioventù, la realizzazione di un programma Gioventù in Azione e la realizzazione dello SVE, un servizio volontario europeo, che hanno raccontato come Erasmus Plus non soltanto ha cambiato loro la vita, ma in queste occasioni ha anche aperto le offerte di lavoro e le possibilità, che è un po' l'orizzonte all'interno del quale noi vogliamo muoverci, quello di non soltanto far fare delle esperienze di progetti e di iniziare iniziative sulle politiche giovanili, sulle attività giovanili, ma fare in modo che tutto questo sia poi utile e spendibile sul mercato del lavoro. Grazie davvero a Giacomo D'Arrigo, agenziagiovani.it, per tutte le informazioni per i prossimi appuntamenti, che sono tanti e sono già nelle prossime settimane, quindi seguite l'agenda dei lavori. Ciao Giacomo, grazie. Io ringrazio te, ringrazio Radio 24 e do appuntamento appunto a tutti quanti sul nostro sito, sui nostri social, Facebook e Twitter, e poi dal 13 al 14 a Milano c'è l'Assemblea Nazionale dello SVE, la prima volta in Italia tutti i ragazzi hanno fatto esperienza di servizio volontario europeo, insieme 250 ragazzi si incontreranno per matcharsi e per far ripartire questa esperienza. Grazie, ci saremo. Adesso un Europosted, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europosted. Il Centro Europeo per l'Economia Politica Internazionale offre tirocini a Bruxelles. Avete una laurea magistrale o un master in economia? Allora attenzione, perché il Centro Europeo per l'Economia Politica Internazionale, che si occupa di ricerche politiche ed economiche rilevanti per il commercio europeo, cerca due tirocinanti da affiancare al team di Bruxelles per 6 mesi. I tirocinanti saranno retribuiti e parteciperanno a tutte le attività del centro, tra cui l'assistenza ai ricercatori dell'ECIPE e un concorso di formazione. Per conoscere i requisiti richiesti e candidarvi, visitate il sito ecipe.org e cliccate Job Opportunities nella sezione Contact. Le domande dovranno essere inviate entro il 1 dicembre 2014. L'altra Europa. No matter what me try, big city life, here my heart have no base. And right now Babylon depend me case. Big city life, try forget by pressure now ease up. No matter what me try, big city life, my heart have no base. And right now Babylon depend me case. Il 13 e il 14 novembre a Roma si terrà un Info Day nazionale di Urbact 3, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Segretariato Europeo del Programma e con Citalia Anci Ricerche, punto di disseminazione nazionale di Urbact per l'Italia. Ma che cos'è Urbact, questo programma europeo di cooperazione territoriale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale? Ce lo spiega Raffaele Barbato, responsabile progetti presso il Segretariato del Programma, che ha sede a Parigi. Ciao Raffaele, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, grazie a te per l'invito. Sì, in effetti siamo ormai quasi pronti a questo Info Day di Roma del 14 novembre. Come dicevi tu benissimo, in effetti il programma Urbact è un programma di cooperazione territoriale dell'Unione Europea. A chi parlate? A chi parlate quindi? I nostri diciamo interlocutori principali sono le città. Le città sono al centro del nostro dispositivo e sono anche diciamo i beneficiari principali del programma. E questo perché il programma Urbact in effetti è l'unico dei programmi di cooperazione ad essere diciamo esclusivamente dedicato alle questioni di sviluppo urbano. In effetti noi aiutiamo la Commissione Europea a promuovere questo modello di sviluppo urbano integrato e sostenibile che la Commissione al canto suo promuove ormai da 20 anni con degli investimenti anche abbastanza importanti nelle varie regioni d'Europa. Giusto per venire giusto a quanto dicevi tu all'inizio, che cos'è Urbact? Io incomincerei a dire che cosa non è Urbact. Sì. Nel senso, Urbact in quanto programma di cooperazione territoriale non è un programma di investimenti, non è un programma che finanzia progetti di investimenti. Il programma Urbact è un programma di condivisione, è un programma di scambio, è un programma di networking, di rete, quindi l'idea è veramente lavorare sul capitale umano delle città europee e cercare di valorizzare quelle che sono le competenze e le conoscenze dei tecnici, dei politici, ma anche di altri attori che lavorano in ambito urbano. Quindi è questo il nostro campo d'azione, il nostro diciamo landscape. Urbact.eu, il sito europeo per l'Italia, invece Italia.it. Raffaele, chi vi aspettate quindi per questi 2 giorni, soprattutto amministratori locali? Sì, in effetti abbiamo già, come sempre in Italia, perché devo dire che il rapporto dell'Italia con il programma Urbact, io la definisco una storia d'amore che dura già da una decina d'anni. L'Italia è il primo paese in quanto a numero di città che hanno partecipato al programma Urbact dall'inizio, e quindi ancora una volta, come anche negli anni passati, all'Info Day di Roma abbiamo già cifre di partecipanti e di iscritti abbastanza importanti, siamo già oltre 150 iscritti. Sì, sostanzialmente sono rappresentanti di città che hanno già intrapreso a livello locale dei processi, delle nuove riflessioni su politiche urbane e che vorrebbero, che vogliono, diciamo, arricchire diciamo il loro background, il loro bagaglio con esperienze che vengono un po' anche da altre città. Io so che ultimamente voi avete dato spazio alla città di Genova, sì, che ha effettivamente sviluppato quello che è il suo nuovo logo per la campagna di City Branding nel quadro di un nostro progetto. Quindi veramente questo percorso condiviso di città, ognuna con una sua particolarità, con un suo progetto, ma che attraverso il contatto, la contaminazione, l'interazione con altre esperienze europee arricchisce quello che è, diciamo, la sua capacità di fare politiche urbane locali. E continueremo a seguirvi. Vi ricordo allora l'Info Day nazionale Urbact 3 a Roma 13 e 14 novembre. Grazie davvero a Raffaele Barbato. Ciao, buon sabato. Grazie a te, ciao Federico, ciao. È stata inaugurata a Bruxelles la mostra A Dream for Europe, un sogno per l'Europa, organizzata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Con noi la responsabile attività culturali della Fondazione, Isabella Belcari. Isabella, cosa ci fa Pinocchio a Bruxelles? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Pinocchio a Bruxelles si fa compagnia con alcuni dei suoi amici e cerca di parlare ai politici e funzionari dell'Unione Europea, ma anche alla gente comune, a chiunque possa essere interessato, di come l'Europa può essere unita attraverso i racconti per bambini, in maniera che ci si cominci a sentire anche europei fin dall'infanzia. Infatti, perché al di là della mostra c'è questa giornata, il 20 novembre, che è la giornata mondiale dell'infanzia, che avete scelto per lanciare un progetto molto importante, appunto di contaminazione, incontro, scambio culturale attraverso dei libri, attraverso rappresentazioni fiabesche di vari paesi, Il piccolo principe per la Francia, Pipi Calzelunghe per la Svezia, Pinocchio per l'Italia. Partire dalle favole, dalle storie per l'infanzia per costruire un'altra Europa. Sì, esattamente. La mostra è allestita nel Palazzo Berlaymont, che è la sede della Commissione Europea, e nel giro di pochi giorni, perché è stata inaugurata il 4 scorso, è già stata vista da qualche migliaio di persone, diciamo così, tra coloro che hanno nelle mani le leve della nostra Unione Europea, e quindi forse per la prima volta, speriamo di no, hanno cominciato a pensare anche ai cittadini che si stanno formando. E lì Pinocchio, insieme a varie figure, appunto tra cui quelle che ha menzionato lei, si presenta come una proposta appunto di condivisione culturale che in realtà è già in atto, solo che spesso non siamo consapevoli di condividere così tante cose con persone di altri paesi dell'Unione Europea e non solo, fin dall'infanzia. E questa mostra ce lo ricorda. Invece il 20 novembre ci sarà un incontro a cui sono stati invitati, oltre ai parlamentari europei interessati all'argomento, tra cui l'onorevole Silvia Costa, che è anche presidente della Commissione Cultura e Educazione del Parlamento Europeo e presiederà questo incontro. Ecco, sono stati invitati amministrazioni locali, organizzazioni come la Fondazione Collodi, che attraverso la letteratura per ragazzi cercano di promuovere una cultura sempre rinnovata, sempre ampliata per i bambini in tutti i campi, nel tempo libero, nella scuola, insieme alle loro famiglie, e anche a mantenere in contatto con la loro infanzia quei grandi che in fondo non se la sono dimenticata del tutto e attraverso questo scoprono una nuova ricchezza. Certo. Quindi ci saranno appunto rappresentanti da tutti i paesi dell'Unione, perché tutti i paesi dell'Unione effettivamente, anche se non sempre questo è noto, hanno un patrimonio di racconti, non solo letterari, anche fumetti, anche cartoni animati. Per parlare di forme più recenti, anche se ormai ben stabilite nella nostra vita quotidiana, un bel patrimonio di storie per ragazzi che hanno un valore e che vale la pena di condividere. Anche perché insomma un immaginario comune. Allora, l'accostamento tra Pinocchio e politici capisco che possa essere anche un po' imbarazzante a volte, vero? Però insomma forse qualche volta, solo se i politici non sono buoni per Pinocchio, per precisare, è una bravissima persona, Isabella, anche un po' dura. No, volevo chiederti una cosa prima di salutarci, ma l'immaginario dei visitatori della mostra, vengono a vedere il Pinocchio che hanno conosciuto con la Disney o c'è una conoscenza reale del Pinocchio di Collodi? La conoscenza è una cosa che si crea col tempo. Il nostro scopo attraverso la network che vorremmo creare con tutte queste organizzazioni è appunto di fare della conoscenza un meccanismo che cresce continuamente, sia creando un itinerario, una sorta di strada europea della fiaba che attraversi, per chi la vorrà percorrere anche a tappe, anche in anni successivi, tutta l'Europa, ma anche un luogo sul web di cui presenteremo un titolo dimostrativo, un'applicazione chiamata Virtual Pinocchio, un luogo virtuale dove di nuovo tutte le persone, magari agganciate semplicemente dalla curiosità di googlare il nome di un personaggio della loro infanzia su internet, potranno scoprire sempre di più su questi personaggi e anche sui territori che li hanno fatti nascere, in questa maniera promuovendo luoghi reali, attività reali che esistono, possono cominciare ad esistere in tutti i paesi dell'Europa. www.pinocchio.it per tutte le informazioni. Grazie Isabella, ciao e buon sabato. Grazie a voi. Questo grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e alla squadra dell'Altra Europa, Silvia Righini e Miriam Lucchetti, che come hanno scritto la puntata, Lucia Tolve oggi in assistenza, Roberto Scaltriti alla parte tecnica. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo, con me invece domattina si può fare, quando sarò ancora il supplente di Alessio Maurizi. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.